Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Preso atto, lei deve dire: chiedo scusa al gruppo parlamentare, Presidente, di Forza Brunetta, Italia. Ho chiedo detto scusa. Che mi dispiace che sia come accaduto. No? Abbia come pazienza. No? Può succedere quando si no? lavora. Questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, era un'irascibile Brunetta in Parlamento che attaccava la Presidente della Camera Boldrini perché aveva, lei dice in buona fede, dimezzato così sbadatamente il tempo di parola di uno dei parlamentari di Forza Italia. Quindi dice, ne prendo atto, chiedo scusa, no, anzi non ha detto chiedo scusa, ha detto mi dispiace. Cioè, Brunetta ha avuto questa reazione, sapete quando ripete più volte le stesse cose. Insomma, la politica avrà sicuramente un certo spazio qui questa sera perché abbiamo avuto una settimana molto movimentata, tumultuosa, in particolare legata alla Lega, ai suoi rapporti interni, ai rapporti con Forza Italia, però anche il PD è che oggi ha avuto una riunione alla quale però non sono andati i bersaniani, i cuperliani, insomma la minoranza Dem, come si dice, la minoranza dei democratici, perché contestano insomma la linea troppo autoritaria di Renzi. Poi ci occuperemo però anche di cronaca perché ci sono due novità che riguardano una il delitto di Avetrana, l'altro il delitto di Iara. Ci sarà una criminologa a parlarne, si chiude tra l'altro l'inchiesta relativa a Bossetti e si va verso il rinvio a giudizio. Ci occuperemo anche dei guai infiniti del Parma e poi capiremo anche che, quali sono le previsioni per le prossime ore, meteo, se dovete fare qualcosa, anche se uno sta in casa, vuol sapere, c'è il sole, piove, fa freddo, che temperature ci saranno. Vi ricordo che per i vostri commenti sulle notizie di oggi, qui Effetto Notte, ci sono sempre due canali, molti ormai lo sanno da tempo, ascoltano costantemente Effetto Notte, fanno bene e avranno prima o poi una medaglia al merito. Quelli che non lo sanno sappiano che c'è un numero per i messaggi, sms al 349-238-6666 e c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte a vostra disposizione. Ci sono già molti messaggi relativi a questa dichiarazione di oggi della ministra Boschi che ha detto a proposito di eliminare i vitalizi per i corrotti, per i condannati, dice è importante dare un segnale ma bisogna stare attenti a non prendere posizioni che sono d'impatto sull'opinione pubblica ma che non sono rispettose dei principi costituzionali. Insomma, questi vitalizi sono previsti dalla Costituzione. È vero che si può cambiare se è una cosa sbagliata. Cosa ne pensate? I vostri commenti? Io intanto, come sempre, all'inizio vi riassumo la giornata. Economia, il PIL italiano torna a crescere dopo 3 anni e mezzo con un più 0,1%, spread sotto i 100 punti, più cari benzina e alimentari. Terrorismo islamico, secondo la relazione degli 007 in Italia, simbolo della cristianità, il nostro paese cresce il rischio di attacchi. PD, Renzi incontra i parlamentari, assente la minoranza per protesta, il vice segretario Guerini commenta, da Bersani eccesso di polemica. La Lega Nord a Roma, scontri tra forze dell'ordine e manifestanti. Mezzo sì del Parlamento sulla Palestina. Via libera due mozioni contrastanti di PD da una parte e Area Popolare Scelta Civica dall'altra. Scoppia la polemica, plaude Israele, delusa l'autorità nazionale palestinese. Il delitto di Avetrana, per la prima volta parla Cosima che ribadisce la sua innocenza e quella della figlia Sabrina, entrambe condannate all'ergastolo. E per l'omicidio di Iara chiusa l'inchiesta, Bossetti agì con crudeltà. Televisione, morto 83 anni Leonard Nimoy, Spock di Star Trek. E per il calcio, nei sorteggi per l'Europa League, anche la sfida Fiorentina-Roma. Per il campionato di Serie A, Genoa-Parma, sono state accolte le richieste dei giocatori emiliani, quindi domenica non si giocherà. E partiamo quindi dai positivi dati dell'Istat sull'economia italiana. Nel primo trimestre l'Italia tornerà a crescere, almeno a mostrare un segno, diciamo così, un po' più nella variazione congiunturale del PIL dopo 14 trimestri consecutivi di assenza di crescita. Tra tanti cali e qualche indice piatto c'è questo aumento dello 0,1%. L'ultimo aumento è datato nel secondo trimestre 2011, quindi si parla di 3 anni e mezzo fa. La variazione congiunturale, si legge nella relazione dell'Istat, reale del PIL previsto è pari a più 0,1%. Secondo l'Istat i segnali positivi sull'economia italiana si rafforzano, quindi al miglioramento nelle opinioni dei consumatori e imprese registrate a febbraio si affianca anche l'aumento della produzione industriale a dicembre e quello del fatturato dei servizi nel quarto trimestre del 2014. Permangono tuttavia difficoltà nel mercato del lavoro, si conferma la fase deflazionistica seppure in attenuazione, con l'aumento si nota in particolare di carburanti e generi alimentari. E c'è l'allarme dei servizi segreti che oggi hanno tenuto una relazione in Parlamento in cui parlano di un aumento del rischio di attacchi terroristici in Italia, che è anche simbolo della cristianità, e di questo parleremo tra poco con il presidente del COPASIR, il Comitato di Controllo sui Servizi Segreti. E siamo alla politica, con le tensioni nel PD, vi dicevo, alla riunione convocata da Renzi oggi al Nazareno non sono andati Cuperlo e Bersani. Un lungo pomeriggio quello di Matteo Renzi al Nazareno, il Premier convoca la segreteria e poi gruppi parlamentari per parlare di fisco, RAI, ambiente e scuola, ma la minoranza diserta l'incontro, in primis l'ex segretario Pierluigi Bersani. In aperta polemica, non faccio il figurante, spiega Bersani, che si scaglia contro Jobs Act e legge elettorale, riforme incostituzionali, dice, e quella del sistema di voto potrebbe avere un suo voto contrario. Per il vice segretario Dem Lorenzo Guerini è un eccesso di polemica. La discussione c'è, è vera. È una discussione che tiene conto delle posizioni di tutti, dopodiché, come tutte le discussioni, come tutti i confronti, si conclude. Mi pare che abbiamo dato dimostrazione in questi mesi di un dibattito vero dentro il partito e di un dibattito che è rispettoso delle diverse posizioni, con la consapevolezza però che poi a un certo punto si decide. Ma a sostegno dell'ex segretario arrivano anche gli ex avversari di Forza Italia per Renato Brunetta e la rivincita della morale in politica, la rottura del Nazareno e il tradimento della parola data a Berlusconi sul Presidente della Repubblica pubblica da parte di Matteo Renzi. Il vice capogruppo PD alla Camera, Ettore Rosato, però smentisce che ci siano divisioni all'interno del partito. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E domani la Lega manifesta in piazza Roma contro Renzi, una capitale che è blindata perché quella del Carroccio non è l'unica manifestazione. A Roma si accende la protesta alla vigilia della manifestazione della Lega Nord e del controcorteo dei centri sociali. Nel pomeriggio la polizia ha caricato un gruppo di antagonisti nella zona di Piazzale Flaminio. I manifestanti, alcuni dei quali indossavano caschi, hanno bloccato il traffico e poi hanno cercato di raggiungere la vicina Piazza del Popolo, dove domani pomeriggio è in programma l'iniziativa del Carroccio, ma sono stati respinti dagli agenti in tenuta antisommossa. In mattinata alcuni militanti dei movimenti per la casa hanno occupato per circa un'ora una delle chiese che si affaccia sulla piazza, ma sono stati poi fatti sgomberare dalla polizia. Tre di loro sono stati fermati, mentre una donna è stata soccorsa da un'ambulanza. Contro la manifestazione del Carroccio, alla quale hanno aderito anche Fratelli d'Italia e Casa Pound, domani i centri sociali sfileranno in corteo da Piazza Vittorio a Campo dei Fiori e, visto quanto accaduto oggi, si temono nuovi disordini. Sono oltre 5.000 gli antagonisti attesi nella capitale, il cui centro storico sarà presidiato da 3.000 uomini delle forze dell'ordine. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E c'è anche il voto parlamentare sulla Palestina, oggi piuttosto controverso. Si è votato alla Camera, c'è stato il via libera a due diverse mozioni sulla Palestina. Israele plaude alla scelta italiana, delusione invece per l'autorità nazionale palestinese. Il governo valuta favorevolmente l'impulso parlamentare a promuovere il riconoscimento di uno Stato palestinese. Così il ministro Gentiloni illustra la posizione del governo italiano, ma se da una parte si promuove il riconoscimento della Palestina, dall'altra lo si subordina alla ripresa del processo di pace. Da una parte infatti il Parlamento è stato esplicito, dall'altra più cauto, e il risultato è secondo molti confuso. L'ambiguità nasce dall'approvazione di due mozioni, entrambe sostenute dal governo, una del PD con cui il governo si impegna a salvaguardare il diritto dei palestinesi ad uno Stato come quello di Israele alla sicurezza, una formulazione considerata un primo passo dalla sinistra Dem e da Sel, i quali puntavano ad una legittimazione formale immediata. L'altra mozione dei centristi subordina la questione al raggiungimento di un'intesa politica tra il Fatah e Hamas. Per la maggioranza del PD le due mozioni si integrano, per la sinistra Dem e Sel invece sono contrastanti, critici anche grillini al governo, o sono dissociati o sono in malafede. Quanto ai diretti interessati plaude l'ambasciata israeliana alla scelta del Parlamento di non riconoscere lo Stato palestinese, plaude anche quella palestinese al seppur simbolico riconoscimento, mentre l'OLP è delusa e chiede un riconoscimento senza condizioni. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Per la cronaca, è stato aggiornato al 13 marzo il processo di secondo grado per l'omicidio di Sara Scazzi. Per la prima volta in aula oggi ha parlato Cosima, la zia di Sara, che insieme alla figlia Sabrina avrebbe ucciso, secondo l'accusa, ad Avetrana la piccola Sara. Dichiarazioni che però non hanno convinto la madre di Sara, Concetta, e poi di questo ne parleremo, così come parleremo anche delle novità che ci sono sull'omicidio di Yara Gambirasio. Si va verso il rinvio a giudizio perché l'inchiesta è stata chiusa. E questo il servizio tra poco è una risposta a un messaggio che in realtà è arrivato proprio all'inizio di Effetto Notte al 349-238-6666 di Clotilde, che dice: cara Roberta, la prego di chiarirmi le idee. Nel vostro giro ho sentito che il Qatar ha portato a termine l'acquisto di Porta Nuova, cioè un quartiere di Milano, e poi i vari Emirati comprano per tutta l'Europa. Allora mi chiedo perché tanto allarme per l'ISIS quando siamo già invasi dagli islamici? Questi sono musulmani con i soldi. Poi è vero che il Qatar si dice finanzia anche l'ISIS, i paesi arabi, insomma rapporti piuttosto ambigui, però intanto parliamo di questa notizia. Effettivamente il fondo sovrano del Qatar ha comprato un intero quartiere, che è appunto quello di Porta Nuova a Milano, dove sorgono i nuovi grattacieli. Un anno e mezzo fa aveva comprato il 40%, ora ha deciso di completare l'opera. Con una mossa tenuta nel più stretto riservo per mesi, il fondo sovrano del Qatar si aggiudica tutte le quote dei soci italiani ed esteri e sale al 100% di Porta Nuova. Un'area diventata uno dei simboli di Milano, con i nuovi grattacieli, dal Bosco Verticale alla Torre Unicredit, le sedi di Nike, Google, di alcune delle più importanti griff della moda e le case di lusso. Ad annunciare l'operazione Manfredi Catella, a capo di Heinz SGR, la società che ha sviluppato il progetto da oltre 2 miliardi di euro. La cifra pagata dal Qatar non è nota. Catella si è limitato a dire che chi ha venduto ha guadagnato il 30% e che l'operazione riporta l'Italia nella mappa dei grandi investitori. Queste le sue parole a Focus Economia. La cosa importante è che l'Italia, una volta tanto, produce in questo caso un progetto immobiliare che viene considerato alla stregua dei migliori progetti a Londra, a New York o nel resto del mondo. Questo è il vero grande messaggio. E il Qatar punta solo a grandi investimenti. Basta pensare ai magazzini Harrods a Londra, alla Maison Valentino, al Paris Saint-Germain, agli hotel di lusso in Costa Smeralda. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia che riguarda la televisione e gli amanti di quella serie di Star Trek: Leonard Nimoy, il celebre Spock di Star Trek, si è spento a 83 anni nella sua abitazione in California a causa di complicazioni polmonari. Poi il calcio: nei sorteggi di Europa League, come si temeva, c'è anche il derby Roma italiano, Roma-Fiorentina. Poi ne parleremo, come parleremo anche degli enormi guai del Parma. Domenica non si giocherà Genoa-Parma. Il presidente della Federcalcio Tavecchio ha disposto il rinvio del match e qualcun altro ha disposto il pignoramento anche degli spogliatoi del Parma, quindi sono veramente con le pezze al sedere, come si dice. Purtroppo voi continuate con i vostri messaggi sia al 349-238-6666 sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Vedo tantissimi messaggi relativamente ai vitalizi, ai corrotti. Se ne è parlato in questi giorni, ve l'ho raccontato diverse volte, una proposta anche del presidente del Senato Grasso e della presidente della Camera Boldrini, c'erano già state proposte in passato anche del Movimento 5 Stelle, insomma, di abolire i vitalizi per i corrotti. La ministra Boschi oggi ha detto: d'accordo, bisogna dare un segnale importante, ma attenzione a non andare contro certi principi costituzionali. Stanno arrivando diversi messaggi, insomma, che davvero non condividono questo pensiero. Per esempio Adelchi da Forlì: a colpi di maggioranza cambiano la Costituzione per blindarsi le poltrone, vitalizi e privilegi intoccabili. E qualcun altro scrive: questa Boschi sarebbe il nuovo? Bleh. Poi, dove finisce la materia costituzionale che come tale non si può modificare e dove inizia quella legale da potersi cambiare in qualunque momento? Continuate con le vostre riflessioni, i vostri messaggi. Intanto aggiorniamo chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E ancora, tra l'altro, i vostri messaggi in questi 60 minuti sulla pagina Facebook di Effetto Notte e come SMS al 349-238-6666. Luca scrive: i vitalizi non si possono dare a chi è stato condannato per reati di corruzione o truffa allo Stato, mi sembra il minimo. Sapete, questa discussione che c'è in questi giorni, l'ultima dichiarazione della ministra Boschi, che ho postato anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, se la volete andare a vedere. Ma andiamo a vedere anche le altre notizie della giornata. L'Italia torna a crescere, secondo i dati Istat lo spread è sotto quota 100, migliora la deflazione, quindi più cari benzina e alimentari. E poi l'allarme dei 007, di cui parleremo tra poco, l'Italia è nel mirino dell'ISIS. E poi c'è Jihadi John, il boia cosiddetto, ma effettivamente boia dell'ISIS. C'è la prima foto sua senza cappuccio ed è bufera sul primo ministro inglese Cameron a Londra, perché sembra che si siano lasciati sfuggire i servizi segreti inglesi questo terrorista così sanguinario. Poi Salvini a Roma, domani la manifestazione, città blindata, scontri con i manifestanti anti-Lega, l'evento è più che confermato, non decidono gli squadristi, dice Salvini. Poi mezzo sì del Parlamento italiano al riconoscimento della Palestina, scoppia la polemica perché c'è il via libera a due mozioni diverse, quella del PD e quella di Area Popolare Scelta Civica. Da una parte Israele esulta, dall'altra l'Autorità Nazionale Palestinese è rimasta delusa. E poi Renzi che chiama il PD su scuola, RAI e telecomunicazioni, oggi scontro con la minoranza di sinistra, il segretario, vice segretario Guerini dice si tratta di polemiche inutili, ma Cooper lo incalza, le nostre proposte sono sempre state ignorate. L'omicidio di Sara Scazzi, Cosima, la zia in galera, si difende, noi condannate come Gesù, dice nel processo d'appello. E poi Bossetti, secondo i PM, ha ucciso Iara con crudeltà e calunniato un collega. Per l'Europa League, derby Fiorentina-Roma ci sarà, è venuto fuori dai sorteggi, poi addio a Leonard Nimoy, il dottor Spock di Star Trek. E adesso parliamo di questa relazione di oggi in Parlamento dei servizi segreti che lanciano un allarme. Cresce per il nostro paese il rischio di attacchi, significativo incremento del flusso degli aspiranti combattenti, sebbene non siano emerse dalle indagini, dalle attività di intelligence, progettualità ostili, si legge, riconducibili all'ISIS o altre formazioni collegate alla Jihad globale, spiegano così 007. La minaccia interessa anche l'Italia, potenziale obiettivo di attacchi, pure per la sua valenza simbolica di epicentro della cristianità. Fra l'altro, mi pare proprio ieri, il capo della polizia Pansa ha parlato in audizione di un rischio di attentati in Italia mai così alto. Ne parliamo con Giacomo Stucchi. Buonasera, senatore. Pronto? Sì, buonasera. Eccoci, senatore della Lega Nord, presidente del COPASIR, che è il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, un organismo di controllo sui servizi segreti. Quindi il rischio diventa più alto, ieri l'ha detto Pansa, oggi nella relazione degli 007, che cosa dobbiamo pensare, senatore Stucchi? Sì, diciamo che tra l'altro volevo sottolineare una cosa, questa relazione è scaricabile su internet al sito sicurezzanazionale.gov.it, quindi tutti i cittadini la possono leggere, perché non è solo una relazione al Parlamento, ma è un modo per comunicare quella che è la reale situazione, naturalmente per quanto si può rendere pubblico, circa determinati pericoli, non solo naturalmente il terrorismo internazionale, ma anche altre questioni che interessano la sicurezza a livello complessivo del Paese. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che determinate questioni che preoccupano giustamente l'opinione pubblica, preoccupano tutti i cittadini in generale, sono questioni molto delicate. Le nostre agenzie, il DIS in modo particolare, che è il Dipartimento che coordina le agenzie, evidenziano nella relazione annuale, che per legge deve essere depositata entro la fine di febbraio per l'anno precedente, che c'è effettivamente un pericolo elevato, un pericolo che non è mai stato così elevato come in questo momento. Naturalmente la situazione si complica, diciamo così, di giorno in giorno, nel senso che ci sono delle situazioni che, se non vengono affrontate e risolte, rischiano a volte anche di incancrenirsi, e quindi è necessario tenere alta la guardia e intervenire per prevenire tutto ciò che è possibile naturalmente prevenire, perché tutto può essere possibile in termini di azioni da parte di soggetti che si possono attivare anche improvvisamente, è scritto benissimo nella relazione, magari che sono già presenti sul nostro territorio. Naturalmente questo non vuol dire che diventi probabile o che diventi una cosa concreta. Il rischio una volta erano solamente, diciamo così, le reti terroristiche, oggi il terrorismo molecolare, quindi l'attore solitario piuttosto che il piccolo gruppo, è la grande sfida con cui ci dobbiamo confrontare. Proprio perché sono piccoli gruppi o è il singolo soggetto, è molto più difficile riuscire a controllare e a prevenire quelle che possono essere delle azioni che possono avere anche delle conseguenze drammatiche. Oggi il ministro dell'Interno Alfano ha detto che non esiste alcun paese a rischio zero, però abbiamo intensificato tutti i controlli all'ingresso. Tra l'altro leggevo, senatore Stucchi, che sono stati presi dal fondo per l'asilo ai migranti 15 milioni per finanziare strade sicure. È vera questa notizia? Questa è una questione che riguarda naturalmente il governo, e per quanto riguarda le coperture ne risponde il governo. Noi siamo un organismo parlamentare e ci occupiamo dell'attività dei servizi, quindi ci occupiamo di un'attività che viene svolta a monte, non a valle, come quelle delle forze dell'ordine. Naturalmente, per quanto riguarda le coperture, potrebbe aprirsi un discorso di logicità rispetto alla scelta che è stata effettuata, e secondo me c'è molto da discutere, ma non è, diciamo, l'attività del comitato che io ho l'onore e l'onere di presiedere. Quello che voglio sottolineare è questo: ha ragione il ministro quando dice non è solo l'Italia, perché l'obiettivo dell'ISIS, del terrorismo internazionale di matrice jihadista, è tutto l'Occidente, quindi tutti i valori che rappresentano una cultura che per loro deve essere abbattuta. Quindi Roma piuttosto che Parigi, piuttosto che Copenaghen, hanno la stessa valenza. Certo, geograficamente Roma è più vicina, geograficamente l'Italia è più esposta. Questo non vuol dire che dobbiamo farci prendere dal panico, ma vuol dire che dobbiamo avere una preoccupazione ragionata per quello che potrebbe accadere nel nostro paese. La ringrazio, senatore Stucchi. Grazie. Allora, buon lavoro, grazie. E adesso andiamo sulla politica. Questa settimana ne abbiamo viste un po' di vari tipi, insomma, del resto ci avviciniamo alle elezioni regionali. Allora, ve l'ho raccontato, insomma, durante questi giorni, anche attraverso alcuni protagonisti di queste vicende, tra cui Tosi della Lega Nord, in realtà segretario della Liga Veneta, e del suo contrasto con Salvini, poi con Toti, consigliere politico di Forza Italia. Allora, innanzitutto c'è stato lo scontro nella Lega tra il segretario della Lega Nord Salvini con Tosi, sindaco di Verona, perché Tosi aveva ipotizzato la possibilità di candidarsi alle regionali per sostituire Zaia in Veneto, cosa che a Salvini proprio non è piaciuta per niente, e aveva avvertito Tosi: attenzione, che chi non è con Zaia, chi mette i bastoni tra le ruote, è fuori dalla Lega. C'è stata una lunga intervista qui a Effetto Notte questa settimana con Tosi. Nell'ultima parte avevo letto un'agenzia in cui Salvini sembrava tendere la mano a Tosi, elogiarlo per la sicurezza a Verona, e avevo chiesto se, insomma, c'era la pace in vista. Sentiamo. Questa sera ospite di Quinta Colonna su Rete 4 ha detto Salvini: se si vuole si può sulla sicurezza. A Verona, ad esempio, dove c'erano campi rom e non ci sono più, perché se un sindaco si fa rispettare la legge, se un sindaco fa rispettare la legge, le cose tornano alla normalità. Lancia il modello Verona sulla sicurezza. Fate pace in un secondo? Ma allora, quando c'è la volontà di trovare con buon senso una soluzione, le soluzioni si trovano. Penso che la speranza di tutti sia quella, dopodiché si vede, insomma, le cose come evolvono nel tempo. Poi sembra che la tensione, almeno per il momento, ieri si sia molto allentata. Leggevo adesso un'agenzia di questi istanti con Salvini che dice: Tosi, non litigo, ma è sciocco discutere su Zaia. Poi sempre Salvini ieri, come si dice, ha gelato Berlusconi, nel senso ha preso le distanze da un accordo con Forza Italia che ormai era dato quasi per certo, dicendo: non c'è nessun accordo, siamo troppo diversi sull'Europa e sull'Italia. Allora ieri c'era qui a Effetto Notte Giovanni Toti, che è il consigliere politico di Forza Italia, europarlamentare, uomo vicinissimo a Berlusconi. Sentiamo proprio uno stralcio di quell'argomentazione. Se uno fa politica per cercare di incidere sulla realtà, cerca delle alleanze per cercare di vincere e far prevalere le proprie idee, le proprie ricette, e le ricette del centrodestra sono meglio di quelle del centrosinistra. Se uno cerca in politica solamente un'affermazione di narcisismo individuale o di narcisismo di partito, finisce per condannarsi da solo all'emarginazione. Io spero che la Lega, al netto della propaganda di queste ore, torni a ragionare seriamente. Questo è l'invito di Toti. E in un'intervista oggi al Corriere della Sera Salvini ha detto: non ho divorziato da Berlusconi, ma scelga tra me e Alfano, perché non può vedere il nuovo centrodestra. Dice: con Forza Italia sono possibili per il momento delle alleanze a livello locale. Poi ieri c'è stato anche l'incontro di Grillo e Casaleggio con il Presidente della Repubblica Mattarella. Bersani, che già ieri, poi oggi è scoppiata ulteriormente la situazione dentro il PD, ieri diceva: io non voglio continuare a fare il figurante, il Jobs Act è incostituzionale, ha disertato lui, la minoranza Dem, la riunione del PD di oggi convocata da Renzi. Ne parliamo con Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Ho messo un po' di carne al fuoco, Fabrizio? Ne è messa tanta, in effetti è stata una settimana abbastanza affollata di avvenimenti, sì. Da dove vorresti iniziare? Poi c'è la questione Mediaset, poi c'è anche la doppia mozione sulla Palestina, insomma. Ma forse oggi, stasera varrebbe la pena partire dai dati sull'economia, che sono per la prima volta un po' più positivi, ma magari questo se ne parla in altri orari, in altre trasmissioni, in altre parti della tua trasmissione. Però fammelo fare un accenno, perché accenniamo per la prima volta effettivamente vediamo una serie di dati che sono tutti in una direzione positiva modesta, perché parliamo di una crescita previsione dell'Istat sul primo trimestre dello più 0,1, quindi un barlume proprio di crescita, però perlomeno comunque finisce la serie di segni negativi davanti al PIL, e questo è rilevante. Si torna sotto con lo spread sotto i 100 punti, per la verità si è tornati per qualche ora, perché poi siamo tornati lievemente sopra i 100 punti, però insomma per chi come noi ha vissuto con spread a 570, ti ricordi il dramma del novembre 2011 in cui lo spread raggiunse i 570, tornare sotto i 100 punti effettivamente è un segnale come dire positivo, di progresso notevole. Non ci illudiamo, la ripresa è tutta da costruire, ma oggi sono stati dei segnali positivi. Quindi Fabrizio Forché, tu vuoi dire c'è il buon governo e Bersani ha torto? Non voglio dire questo, voglio dire che i dati dell'economia sono frutto soprattutto di tendenze internazionali, di tendenze europee. Non dimentichiamo che il quantitative easing, il QE messo in atto dalla BCE, è come dire, l'artefice probabilmente principale di questi dati positivi economici. Però sicuramente il governo in questi mesi ha dato prova di un'azione riformista e viene riconosciuta in Europa, e di una stabilità di governo che si è concretizzata nell'operazione Quirinale, diciamo, in cui si è vista comunque la solidità anche politica di questo governo, che sicuramente giovano al clima generale più favorevole. Questo clima è evidentemente perturbato però da queste tensioni interne molto violente nel partito della maggioranza e soprattutto nel partito dell'opposizione, che forse attraverso queste divisioni finiscono per essere il sostegno poi più forte proprio al governo Renzi, che continua a non avere nessuna alternativa reale nel paese. In Veneto addirittura c'è il rischio che le divisioni interne alla Lega e tra Lega, Forza Italia e NCD possano determinare la vittoria ancora una volta del partito di Renzi, che in regione è invece come consensi minoritario nel confronto fra centrosinistra e centrodestra. Quindi vincerebbe la Moretti, ma è chiaro anche, appunto, lo stavi citando Fabrizio Forché, che sono in vista le elezioni regionali di primavera, forse è per questo tutto questo scombussolamento, questo fermento. Sicuramente sì, stiamo andando verso un'elezione al buio in cui le alleanze sono ancora tutte da fare, tutte da determinare, una situazione in cui ci si confronta sulle possibili leadership del futuro, in cui il risultato di questa elezione regionale sarà determinante per poi vedere l'evoluzione del quadro politico successivo, e quindi queste tensioni si scaricano sia nel centro-sinistra sia nel centro-destra, con una turbolenza che poi alla fine in realtà non interferisce tanto nell'azione di governo, proprio perché l'opposizione si dimostra sempre più fragile, quindi comunque l'attività del governo di Renzi ha gioco forza per andare avanti appoggiandosi via via alle maggioranze che si incontrano in Parlamento sui vari provvedimenti. Fabrizio Forché, ti faccio un'ultima domanda che ha scatenato molti messaggi, ne vedo ancora tantissimi, non so se riuscirò a leggerli tutti, poi per conto mio sì. A proposito dei vitalizi, ai corrotti, a chi è stato condannato per corruzione, per reati di mafia, eccetera, c'era la richiesta in questi giorni, in particolare dei presidenti delle Camere e Senato, di eliminarli in base alla legge Severino. Però oggi la ministra Boschi ha detto è importante dare un segnale, ma bisogna stare attenti a non prendere posizioni che sono d'impatto sull'opinione pubblica, ma che non sono rispettose dei principi costituzionali. Ora io dico, come dicono moltissime ascoltatrici e ascoltatori, sia sulla pagina Facebook di Effetto Note, sia attraverso i messaggi al 349-238-6666, finisce sempre che i diritti acquisiti sono quelli di chi di diritti ne ha moltissimi, e poi magari su le pensioni, gli esodati o per esempio chi ha superato i concorsi pubblici, che adesso si trova senza poter accedere alla pubblica amministrazione perché si chiudono le province, vanno prima ricollocati i dipendenti delle province, e quindi chi ha superato un concorso si arrangia. Dove sono i diritti acquisiti costituzionali, eccetera eccetera, Fabrizio? Questa cosa dei vitalizi. Sì, insomma, in questo paese di diritti acquisiti molto spesso non sono stati rispettati. I vitalizi legati alla politica sono stati uno scandalo in questo paese, e quindi è evidente che l'opinione pubblica su questo ha un occhio molto attento. Va detto che in parte sono stati ridotti, probabilmente molto va ancora fatto non risolveremo il problema dei trattamenti pensionistici, ed è quello il vero scandalo di questo paese, veramente minimi di chi oggi non ha veramente le risorse per andare avanti o attraverso la riforma dei vitalizi. Io credo sia utile ragionare seriamente su una ulteriore riforma del sistema pensionistico, introducendo un criterio di solidarietà all'interno delle pensioni, per cui le pensioni maggiori devono contribuire ai trattamenti più bassi. I vitalizi in questo ambito è uno scandalo legato alla politica, che più velocemente lo si supera meglio è. Grazie Fabrizio Forché. Grazie. Buona serata, ciao Fabrizio. Bene, quindi tanti vostri messaggi, un po' lo riassunti in questo, voi potete continuare a scriverli poi man mano se c'è tempo. Abbiamo ancora tantissime cose da raccontare, prendiamoci questa pausa, dopo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre con voi Roberta Giordano, tra poco torneremo a parlare di cronaca con i delitti di Avetrana e di Brembate vicino Bergamo, però intanto leggo ancora qualcuno dei vostri messaggi sui vitalizi ai corrotti, i vitalizi ai parlamentari condannati per corruzione o per mafia. Sono arrivati moltissimi messaggi, io prima li ho un po' sintetizzati dicendo sono sempre quelli i diritti acquisiti e mai gli altri, no? Di chi insomma molto meno. Qualcuno scrive: i politici corrotti fanno francamente ribrezzo, il guaio è che negare loro il vitalizio costituisce una pena accessoria che può essere decisa solo dal giudice in applicazione di una legge. Cosa aspettiamo? Meglio, cosa aspettano i nostri politici a fare una legge in materia? Claudio sulla pagina Facebook di Effetto Notte scrive: è il peccato originale della Costituzione italiana non avendo considerato la possibile disonestà di tantissimi parlamentari, e poi li chiamano pure onorevoli. Adesso però vi sintetizzo le notizie più importanti di oggi. Economia, con questa ripresa del PIL italiano che torna a crescere dopo 3 anni e mezzo con un più 0,1%, lo spread sotto i 100 punti, più cari benzina e alimentari perché cala la deflazione. Terrorismo islamico, secondo le relazioni degli 007 in Italia, simbolo della cristianità, cresce il rischio attacchi. Ne abbiamo parlato col presidente del Copasir. PD, Renzi incontra i parlamentari, assente la minoranza per protesta, e il vice segretario Guerini commenta da Bersani un eccesso di polemica. La Lega Nord a Roma, scontri tra forze dell'ordine manifestanti, domani ci sarà la manifestazione della Lega. Mezzo sì del Parlamento sulla Palestina, via libera due mozioni contrastanti di PD da una parte e Area Popolare Scelta Civica dall'altra, quindi scoppia la polemica. Il delitto di Avetrana e la chiusura dell'inchiesta su Yara, che, di cui parleremo tra poco. Il lutto nella TV, è morto 83 anni Leonard Nimoy, Spock di Star Trek, e per il calcio nei sorteggi per l'Europa League anche la sfida Fiorentina-Roma. E adesso saluto la criminologa, psicologa forense Roberta Bruzzone. Buonasera. Buonasera a voi. Che ha poca voce stasera, vero? Sì, purtroppo sì. Però... scuso con i radioascoltatori. Però le idee chiare e lucide come sempre. Allora, torniamo a parlare del delitto di Avetrana, perché oggi per la prima volta Cosima Serrano, condannata con la figlia Sabrina all'ergastolo per l'omicidio della nipote Sara Scazzi, per la prima volta oggi nel processo d'appello ha parlato, ha fatto dichiarazioni spontanee, è tornata in realtà ancora a dire che non hanno fatto nulla, che sono innocenti. Sentiamone un passaggio dove si commuove anche. Il primo giorno pensavo magari, visto l'orario, magari dei ragazzi hanno mangiato, hanno bevuto un po' di più, hanno visto una ragazzina e l'hanno presa e l'hanno portata via per divertirsi. Ma poi quando andammo a fare la denuncia, il maresciallo ci disse: state tranquilli, magari è passata un'amica e se n'è andato con loro al mare, non ha detto niente. Allora abbiamo aspettato, cioè io dicevo: aspettiamo fino a che fa buio, no? Dicevo, allora a casa ho aspettato fino a che facesse buio, poi sono andata da mia sorella e sono andata dai carabinieri di nuovo. Cioè a quel punto era buio, Sara non veniva a casa, qualcosa era successo. Questa quindi Cosima Serrano. Sentiamo però la mamma di Sara, la vittima, che dice non vuole dire la verità. Ha giustificato la sua posizione, però non ha fatto quello che doveva fare, quello di prendersi la sua responsabilità. Lei tende solo a giustificarsi e ha messo tutti in discussione, però non vuole dire la verità. Noi quella vogliamo conoscere, la verità. È inutile che ci racconta i fatti degli altri che non ci interessano. Hanno commesso un'azione senza ritorno, per cui... Dottoressa Bruzzone, quindi si pensava che volendo per la prima volta parlare spontaneamente Cosima Serrano dicesse qualcosa di nuovo, ma di nuovo... No, ma guardi, francamente io non so chi avesse, chi nutrisse questo tipo di aspettativa, ma era assolutamente irrealistica. Le spontanee dichiarazioni della signora Serrano non spostano assolutamente nulla nel processo, non spostano nulla dell'indagine. È stato un lungo monologo che dal punto di vista processuale, ripeto, lascia il tempo che trova e forse nemmeno quello. La signora Serrano, se aveva voglia di parlare, doveva farlo prima, sia durante l'inchiesta che durante il processo di primo grado. Invece si è sempre avvalsa comunque della facoltà di non rispondere, si è avvalsa della facoltà di non essere sottoposta ad esame, e durante le indagini sono, mi creda, moltissimi il non sono ricordo che affollano le sue deposizioni. Quindi è quanto mai sospetto che dopo 4 anni e mezzo questa memoria sia stata ritrovata quasi miracolosamente. E dico, la vicenda è molto chiara sotto profilo investigativo, io ritengo che non ci sia molto da aggiungere insomma rispetto a quanto già avvenuto nel processo di primo grado, e mi aspetto una sostanziale conferma dei pronunciamenti di primo grado. Insomma, tra l'altro, quello che è successo oggi, ripeto, è sicuramente fa parlare a livello mediatico, dal punto di vista processuale non credo che abbia benché minima importanza. Tra l'altro, dicevo, ricordo che lei ha scritto Segreti di famiglia, il delitto di Sara Scazzi, le prove dei pistaggi, le lacrime di plastica. Invece... Sì, guardi, le lacrime di plastica in Sastrone le abbiamo viste tante, evidentemente non abbiamo ancora finito di vederle. No? Invece cosa stiamo vedendo sul delitto di Brembate? No? Le novità di oggi sono, a parte è stata chiusa l'inchiesta tra ieri e oggi, e poi ci sono nuove intercettazioni che pubblicavano i giornali online, cioè in carcere durante una visita al marito la moglie di Bossetti. Marita l'avrebbe incalzato su dove, chiedendogli dov'era quella sera. Guardi, quel famoso pomeriggio del 26 novembre del 2010, Bossetti era Brembate. Su questo punto credo che ormai non ci siano dubbi. I riscontri di tipo investigativo, i riscontri anche delle telecamere, sono elementi veramente molto solidi, quasi quanto il DNA, che comunque lo colloca in maniera implacabile sulla scena del crimine al momento della morte di questa ragazzina. È chiaro che la moglie comincia a porsi qualche dubbio, legittimamente vuole sapere come è andata, anche perché io penso che questa signora non sappia davvero nulla della vicenda e tantomeno abbia mai nutrito sospetti nei confronti del marito, quindi legittimamente adesso vuole capire, perché anche lei comunque sarà sicuramente allarmata dai continui riscontri della presenza di Bossetti a pochi istanti dal rapimento di Yara, proprio quella famosa sera a Brembate. Quindi è legittimo che questa signora cominci a farsi qualche domanda, probabilmente meglio tardi che mai, insomma. Tra l'altro è stato respinto la richiesta della difesa di scarcerazione. Ma c'era certo. 2 giorni fa qui a Effetto Notte l'avvocato di Bossetti, Salvagni, che continua a insistere sul fatto che la prova del DNA è contestabile, insomma. Guardi, però... Salvagni la contesta solo a livello mediatico, non mi risulta che abbia mai fatto una richiesta tecnica seria per rinnovare la prova genetica, tantomeno per ridiscutere almeno dal punto di vista, diciamo, delle carte e delle procedure utilizzate. Quindi capisce bene che è quanto mai sospetto che un avvocato che pone al centro dell'impianto accusatorio, perché di fatto così è il DNA, poi di fatto non si adoperi nelle debite sedi per cercare di in qualche modo beneficiare quella prova. Consideri poi che alla famosa conferenza stampa che hanno fatto qualche giorno fa, guarda caso l'unica a essere assente era proprio la genetista della difesa, il che mi sembra una circostanza abbastanza suggestiva. Chiudo dicendo che nella chiusura delle indagini, dell'inchiesta, la procura di Bergamo negli atti si contesta a Bossetti l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e la calunnia, perché dice era consapevole che lasciandola ferita, seviziata in quel modo, la bambina sarebbe morta. Hanno contestato 2 aggravanti, le sevizie e la crudeltà, e poi c'è anche il capo di imputazione per la calunnia, perché lui durante le indagini ha accusato una persona che chiaramente la procura ritiene innocente e quindi che lui sapeva essere innocente, per cui c'è anche in contestazione la calunnia. La ringrazio, dottoressa Roberta Bruzzone. Grazie a voi, buona serata. Grazie molte. Viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Quindi sulle notizie più importanti avete sentito appena adesso le novità sia sul delitto di Yara Gambiraso e nel processo di Avetrana con Cosima Serrano, che ha parlato per la prima volta ma effettivamente non ha detto nulla di nuovo, ha continuato a difendere sé e la figlia. Poi l'Italia che torna a crescere secondo i dati Istat con un 0,1% e lo spread sotto quota 100, l'allarme di 007, l'Italia è nel mirino dell'ISIS e ci sono le prime foto di Jihadi John, il boia dell'ISIS, c'è Bufera in Gran Bretagna. Su primo ministro Cameron perché se lo sono lasciato sfuggire. Poi gli scontri a Roma nei manifestanti contro Salvini, che domani farà la manifestazione. Lui dice: l'evento è più che confermato, non decidono gli squadristi. Europa 24 notte. E per l'Europa adesso con Gigi Donnelli parliamo di energia. Hrvatski radio i Euronet Plus. Europa godinama pokušava smanjiti ovisnost o vanjskim dobavljačima energenata, konkretno o Rusiji. Kriza u Ukrajini. Ciao Roberta, buonasera agli ascoltatori. Questa sera parliamo di Europa partendo dalla Croazia, dove i nostri colleghi di Radio HRT, che fanno parte come noi della rete radiofonica europea Euronet Plus, hanno realizzato un servizio sui piani europei di unione energetica, che sono stati presentati mercoledì scorso, 25 febbraio, a Bruxelles. Alla base del progetto c'è l'esigenza di ridurre la dipendenza dell'Unione dalle singole fonti energetiche. Insomma, si vuole diversificare sia in termini di fonti che di fornitori. Annika Edberg, specialista del settore energetico, racconta come l'aggressione in Ucraina da parte della Russia abbia prodotto un vero e proprio shock nell'Unione e ha fatto capire anche quanto la sicurezza energetica sia davvero cruciale per l'Europa. Il progetto europeo prevede una carta delle infrastrutture che dovranno essere costruite in diversi paesi dell'Unione e che insiste in particolare sull'LNG, il gas liquefatto, che arriva potenzialmente da qualsiasi parte del mondo a bordo delle grandi di navi gasiere, per portare quella che la Edberg definisce un'alternativa ai tubi russi. Due grandi hub dell'LNG, ha spiegato il commissario UE all'azione climatica Cagnette, sono già stati aperti in Finlandia ed in Olanda, mentre altri due devono essere costruiti nel sud dell'Europa, per affiancarsi tra l'altro a quelli esistenti, i due italiani a Portoviro e Portovenere, ai tre francesi, a quello greco di Revitussa. Uno di questi dovrà nascere proprio in Croazia, nell'isola di Krk, e per quanto siano chiari i vantaggi economici e in termini di indipendenza dall'est, il professor Jeliko Tomšić dell'Università di Zagabria insiste nel servizio di HRT sul rischio finanziario dell'operazione. Quando si parla di terminal di rigassificazione, spiega Tomšić, bisogna insistere sul fatto che per competere con il gas che arriva attraverso i tubi, il prezzo deve essere molto competitivo e dunque il costo stesso dell'infrastruttura non può incidere troppo sul prezzo finale. Ed ecco perché l'Unione proprio finanzia questo tipo di progetti con un budget di circa 300 miliardi di euro. I soldi dell'Unione saranno dunque determinanti, ma tutto questo implica la costruzione di una rete europea alternativa e complementare a quella delle grandi società energetiche nazionali, italiane comprese, una rete che dovrà crescere proprio grazie al sostegno degli Stati, che in alcuni casi hanno interessi diversi e sono magari disposti ad affrontare in proprio il tema della dipendenza dalle fonti piuttosto che vedere ridurre il proprio primato anche a livello continentale. Insomma, ecco perché il piano presentato questa settimana ha parecchi punti deboli che, secondo gli esperti come la Edberg, potranno essere superati solo se la Commissione stessa sarà capace di imporre le regole sul mercato interno, ma anche i protocolli sull'energia e la politica climatica che l'Europa porta avanti da anni con alterni successi. Staremo a vedere. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Ed è il momento di parlare dei guai del Parma con Giovanni Capuano, che ci spiega esattamente. Si stanno pignorando anche le panche degli spogliatoi, Giovanni, è possibile? Sì, sì, è possibile. Anzi, stanno pignorando praticamente tutto a Collecchio e allo Stadio Tardini. Tanto che è anche difficile solo immaginare che fra 9 giorni, perché fra 9 giorni il Parma dovrebbe giocare in casa con l'Atalanta, in casa proprio al Tardini, ci possa essere una partita di calcio in quello stadio. Oggi è una giornata complicata e soprattutto complicata perché sono tante notizie e non ce n'è nemmeno una positiva. Intanto c'è Genoa-Parma, la partita che si doveva giocare questa domenica e che è stata ufficialmente rinviata su richiesta dei giocatori del Parma, che oggi hanno detto non andiamo perché non ci sono le condizioni per giocare, e il presidente della Federcalcio Tavecchio ha aderito a questa richiesta. Ha però anche precisato che è l'ultima volta, perché siamo al di fuori delle regole, nel senso che il Parma è la seconda volta che non gioca, avrebbe dovuto già perdere 2 volte 3-0 a Tavolino e alla quarta scatta l'esclusione del campionato, e per 2 volte le gare sono state congelate, ma siamo davvero in una situazione limite. E poi oggi era il grande giorno dell'incontro tra Manenti e Pizzarotti. La sintesi è in tre parole: è andato male. L'hanno detto tutti e due, l'ha detto Manenti, che ha rischiato tra l'altro di prendere Presidente le botte di Parma, sì, all'ingresso e all'uscita dal comune, sì, perché è stato atteso da un gruppo di tifosi del Parma e è servita la scorta della polizia per consentirgli di tornare a casa. Però l'ha detto anche il sindaco di Parma, Pizzarotti, che ha detto: questa persona e il suo piano sono completamente non credibili. Tant'è vero che il comune sta addirittura pensando di chiudere lo stadio, che è pur sempre di proprietà del comune per quanto in concessione per la gestione al Parma, chiuderlo e riaprirlo solo il giorno in cui il tribunale, e dovrebbe essere il 19 marzo, dichiarerà il fallimento del Parma, e a quel punto si cercherà di salvare il resto della stagione. Qui però c'è il terzo filone di notizie non buone di oggi, e cioè che per farlo dovrebbero metterci dei soldi probabilmente la stessa Lega, la Federcalcio, però non tutti i presidenti delle altre società sono convinti, quindi in realtà anche questa manovra di salvataggio minima, che poi potrebbe garantire al Parma l'anno prossimo di ripartire dalla Serie B, è in realtà una manovra forse più complicata di quanto pareva fino a qualche giorno fa, anche perché servono non meno di 10 milioni di euro, e tu capisci benissimo che non sono tanti quelli che sono disponibili a metterli a fondo perduto. Capiamo bene. Grazie Giovanni Capuano, questi guai del Parma sempre crescenti. Ciao Giovanni. Grazie a te, ciao. E ora vogliamo sapere che tempo ci aspetta per questo fine settimana. Naturalmente ce lo dice il nostro Paolo Corazon di Trebimeteo. Paolo, buone notizie. Buonasera ciao. Roberto, ma sì, dai, tutto sommato buone notizie stavolta. Partiamo dal sud, dove in questi giorni sono capitate un po' di tutti i colori. Ebbene, domani sarà ancora una giornata un po' instabile, però con piogge sempre meno diffuse, sempre meno intense, comincerà ad arrivare qualche schiarita, e domenica finalmente anche al sud potremo godere di una bella giornata con solo qualche nuvola di passaggio, e finalmente queste piogge ce le lasciamo alle spalle. Per il centro-nord situazione tranquilla già dalla giornata di domani, con un weekend sì con qualche nuvola di passaggio ma senza particolari conseguenze, e poi guarda, in tutta Italia arriveremo quasi a sfiorare 15 gradi, quindi weekend discreto, e finalmente anche al sud con un netto miglioramento in vista. E poi caro Claudio e caro Paolo, scusa, stavo guardando un messaggio di un ascoltatore che si lamentava sempre dei vitalizi. Tu non hai il vitalizio, Paolo Corazon? No, per il tempo. Dubito che mai lo avrò. Diciamo che... L'importante è che tu abbia il sole in fronte sempre. Quello sì, quando ero nel cuore ce l'ho sempre. In ultimo, guarda Roberta, poi ti lascio, volevo anticiparvi che la primavera non è proprio dietro l'angolo, dovremo ancora un po' pazientare, perché verso la fine della prossima settimana, colpo di coda dell'inverno, ci ritroveremo con temperature piuttosto basse. Ma se vedo già le margheritine, gli occhietti della Madonna di Gesù, come li chiamano quelli azzurrini, insomma. Aspettiamo duro, dai Roberto, aspettiamo duro un attimo. Ciao Paolo Corazon, buon tempo a te comunque sia. Ciao grazie, Paolo. Grazie, buon tempo, ciao. Ci sentiamo tra pochino.